24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava. Apriamo anche oggi il nostro appuntamento quotidiano con 24 ore in Europa con la crisi libica. Ieri il vertice di Londra ha concordato di proseguire nell'applicazione della risoluzione ONU. Oggi torneremo anche sull'emergenza profughi nel sud del Mediterraneo e vi racconteremo cosa le ambasciate comunitarie stanno facendo per assistere gli europei in Giappone. Infine vi anticiperemo come Milano si sta preparando all'Expo 2015 che porterà l'Europa e il mondo nella capitale economica d'Italia. A Londra il summit internazionale tra i paesi impegnati nella missione militare in Libia ha aperto ufficialmente una nuova fase nella crisi. La coalizione internazionale ha concordato di continuare gli sforzi finché non sarà attuata la risoluzione dell'ONU 1973. Attivo anche il gruppo di contatto sulla Libia che si riunirà la prossima volta in Qatar. There are better days ahead for Libya. Aprendo i lavori il premier britannico David Cameron ha dichiarato: dobbiamo riaffermare gli impegni della risoluzione ONU sulla Libia e aiutare il popolo libico a preparare il proprio futuro. Per il segretario di Stato americano Hillary Clinton, l'azione militare in Libia continuerà fino a quando il leader Muammar Gheddafi non si piegherà alla risoluzione ONU. E lunedì, alla vigilia del vertice, videoconferenza tra i leader di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Germania, non è stata invitata l'Italia. Non era una videoconferenza per prendere decisioni, ha dichiarato ad Oscar Giannino il ministro degli esteri Franco Frattini. Sentiamo. Non era certo un incontro, una videoconferenza per prendere decisioni o per fare alcunché. E oggi a Londra, tra poche ore, invece, si prenderanno le decisioni, ci sarà un gruppo di contatto permanente, in cui ovviamente l'Italia ci sarà e quello sarà il gruppo decisionale. Noi vediamo tre azioni necessarie. La prima, una garanzia del cessate il fuoco sul terreno, perché evidentemente senza questo è difficile sedersi a un tavolo e purtroppo le truppe di Gheddafi continuano a sparare. La seconda tappa indispensabile è che il Consiglio temporaneo di Bengasi prenda un'iniziativa di riconciliazione nazionale. Quel Consiglio temporaneo viene ritenuto un interlocutore affidabile per la comunità internazionale e quindi sono i libici, cioè loro, a dover prendere un'iniziativa politica dall'interno. Terzo, dall'esterno, l'Unione Africana. Io sono convinto che l'Unione Africana abbia delle chance. L'emergenza profughi italiana si sta trasferendo anche al confine con la Francia. A Ventimiglia ci sono centinaia di clandestini che tentano di passare il confine ma vengono respinti dalla gendarmeria francese. Da soli non ce la facciamo, dice il sindaco di Ventimiglia. E circa 500 persone originarie della Somalia e dell'Eritrea, arrivate a bordo di due imbarcazioni salpate dalla Libia, sono giunte sull'isola di Malta. Si tratta del primo arrivo di rifugiati sull'isola comunitaria dall'inizio dell'anno. E sono state quasi 257.800 le richieste di asilo presentate nei 27 paesi dell'Unione Europea lo scorso anno, in leggero calo rispetto al 2009. In cima alla lista dei richiedenti, i profughi afghani. Il maggior numero di richieste di asilo è stato presentato in Francia, seguita da Germania e Svezia. In Italia sono state 165 per milione di abitanti le richieste presentate. Il problema dell'afflusso di immigrati sulle coste italiane dal Nord Africa non è solamente nostro ma dell'intera Europa, per questo abbiamo bisogno di politiche univoche sia sull'immigrazione che sull'asilo politico, così ha dichiarato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Passiamo ora all'allarme contaminazione in Giappone. Alcune ambasciate europee a Tokyo hanno deciso di distribuire ai propri concittadini pillole di iodio contro l'esposizione alla radioattività. L'ambasciata svedese ha addirittura consigliato di assumerle a scopo preventivo. Intanto l'apporto europeo per i soccorsi alle popolazioni disastrate viene frenato dalla burocrazia giapponese, come ci ha raccontato Stefano Carrer del Sole 24 Ore. Sì, mi trovo all'interno della base dell'aviazione americana di Yokota, circa 50 km da Tokyo, il quartier generale dell'aviazione americana. Ed è il centro logistico da cui è partita l'operazione Tomodachi, operazione amicizia con cui le forze armate americane, mobilitando 20.000 uomini, hanno dato un supporto grandissimo all'operazione di soccorso verso le popolazioni che sono state colpite dal terremoto e dallo tsunami. Ecco, questo sforzo delle forze armate americane contrasta un po' con l'apporto che è stato dato dagli europei, che è stato frenato tra l'altro molto dalla burocrazia giapponese. Per quanto riguarda la situazione di oggi, un secondo team della protezione civile italiana, allargato a 8 uomini, è arrivato a Tokyo ci saranno consultazioni oggi in ambasciata per decidere se distribuire pillole di iodio ai connazionali. Ci sono alcune ambasciate che hanno rotto gli indugi e hanno distribuito ai cittadini queste pillole contro l'esposizione alla radioattività, e addirittura l'ambasciata svedese ha consigliato ai propri cittadini di prenderle ogni 3 giorni. Il punto di domanda è se a livello precauzionale sia il caso di mettere a disposizione dei cittadini, oppure prendere ancora tempo, perché comunque la situazione non, al momento non giustifica una misura del genere. E certo, il fatto che oggi siano state trovate tracce di plutonio nel suolo alla centrale non è rassicurante, e quindi vedremo in giornata che cosa sarà deciso. Intanto vi restituisco la linea dalla base di Yokota. Ora la pagina economica. Standard & Poor's ha declassato il rating del debito sovrano a lungo termine della Grecia a BB- da BB+. Sempre Standard & Poor's ha tagliato il rating del Portogallo alla BBB- dalla BBB. L'outlook è negativo. Le notizie di borsa: a Milano indice negativo, FTSE All Share -0,91%. A Milano l'annuncio di UbiBanca di rafforzare il patrimonio tramite un aumento di capitale fino a 1 miliardo di euro ha innescato un effetto a catena sui titoli delle altre banche, soprattutto su quelle che, secondo il mercato, avrebbero bisogno di un aumento di capitale in vista dell'entrata in vigore delle nuove regole di Basilea 3 nel 2013. UBI ha così ceduto oltre il 12%, seguita da Banca Popolare di Milano, che ha perso il 7,6% nel giorno della pubblicazione dei conti a mercati chiusi. La banca, come anticipato da Radiocore, avrebbe allo studio una ricapitalizzazione da 600 milioni di euro. Il Banco Popolare ha perso quasi il 7%, pur avendo già effettuato di recente un aumento di capitale da 2 miliardi di euro e MPS il 4,5%. Quest'ultima ha mostrato nel 2010 un utile netto in decisa crescita intorno a 980 milioni e ha deciso di tornare a distribuire il dividendo pari a 0,0245 euro per le ordinarie. Giù anche Intesa San Paolo -4,5% e UniCredit -3,7%, che per cui analisti mostrano coefficienti patrimoniali più elevati e in teoria non avrebbero quindi bisogno di un ulteriore rafforzamento del capitale. Livia Zancaner da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora, sempre per l'economia, la guerra tra Italia e Francia sull'alimentare. L'azienda transalpina Lactalis è detta sorpresa dalle parole del ministro italiano Giulio Tremonti, secondo cui in Francia il latte sta in cima all'elenco dei settori da proteggere e in Francia ci sono norme a protezione delle aziende del paese. Tali norme non esistono, sostiene Lactalis. È fallito a Bruxelles dopo 12 ore di negoziati il tentativo di conciliazione tra i ministri dell'Unione Europea e l'Europarlamento, chiamati a decidere sull'arrivo di cibi provenienti da animali clonati sui tavoli del vecchio continente. Cresce l'interesse in Europa e nel mondo verso l'Expo di Milano 2015. Al microfono di Sebastiano Barisoni sentiamo Giuseppe Sala, AD di Expo 2015 SPA. Già 14 paesi che hanno confermato la loro presenza all'evento Meneghino. Gli elementi fondamentali, le chiavi di volta, sono il consenso degli espositori, perché saranno loro quelli che verranno e che investiranno. Questo è il mio punto. E da questo punto di vista, nessun Expo precedentemente ha avuto, a 50 mesi dall'apertura, già 14 paesi che hanno confermato. Perché questo è un po' il paradosso, ma è il paradosso che ci deve far pensare. Se i paesi vogliono venire e noi stiamo a discutere degli orti botanici. Ma sì, ma i paesi, e io viaggio molto, molto all'estero, i paesi, l'idea di venire nel 2015 a Milano per un Expo italiano basato sull'alimentazione, che è un concetto molto italico, i paesi ne sono veramente felici. Andiamo ora al Parlamento europeo con l'audizione del procuratore generale di Caltanissetta Roberto Scarpinato, a lungo magistrato antimafia di Palermo. Ha parlato del cambiamento delle mafie, dell'impatto sull'economia, dei rapporti con la politica e del peso della corruzione. E l'Italia, dice Raffaella Calandra, è inadempiente rispetto all'Europa. L'Italia è inadempiente nei confronti dell'Europa sotto vari fronti. Non ha ancora recepito la Convenzione europea contro la corruzione. Per questo motivo noi non abbiamo il reato di traffico di influenze. Per questo motivo alcuni personaggi, come è stato scritto in sentenza della Cassazione, sono stati assolti. L'Italia non ha ancora recepito le norme europee che stabiliscono che la confisca per equivalente deve essere obbligatoria per tutti i reati, e ancora l'Italia non ha recepito la raccomandazione del Fondo Monetario Europeo, del governatore della Banca d'Italia, del procuratore nazionale antimafia sull'autoriciclaggio. Noi abbiamo una serie di mafiosi che possono riciclare impunemente, perché il nostro ordinamento prevede che una volta che sei stato condannato per un reato di mafia, da quel momento in poi puoi riciclare senza essere punito. Purtroppo si è disegnata nel settore del riciclaggio una vasta area di impunità che non consente di perseguire penalmente importanti soggetti della mafia. Si sono chiuse le selezioni per ITS, International Talent Support, il concorso internazionale per giovani talenti nei settori della moda, del design e della fotografia, che si terrà a Trieste a luglio. Una piattaforma creativa riconosciuta ormai come uno dei principali eventi internazionali nel settore. Ma cosa ci fa un concorso per giovani talenti della moda lontano dalle grandi capitali internazionali? Barbara Franchin, ideatrice e organizzatrice di ITS, al microfono di Maria Luisa Pezzali, conduttrice di Essere e Avere. A livello proprio concettuale ci tiene puliti. Si tiene puliti da influenze e da, come dire, saturazione di comunicazione di moda, fuori dal fashion system, che è quello che noi vogliamo. E poi ci dà un overview globale. Noi siamo sicuramente a nord-est dell'Italia, ma siamo al centro dell'Europa. Oltre 1000, dicevamo, le scuole coinvolte nello scouting, ognuna racconta un approccio diverso con la creatività, ci dice ancora Barbara Franchin. In Islanda ci sono 300.000 abitanti e c'è una scuola di moda e noi siamo andati a vederla. E ognuna ha delle caratteristiche, delle peculiarità. Siamo stati in Israele, siamo stati in India, in Giappone, a Cuba. Ci sono posti dove i materiali non ci sono, le materie prime, se pensiamo a Cuba, pensiamo all'Islanda, per motivazioni diverse, per cui la creatività si declina necessariamente nel trovare soluzioni alternative nei materiali. Ci sono altri posti come l'Inghilterra dove la creatività è portata, o in Belgio è portata all'ennesima potenza. Giornata storica per il casinò francese di Port-Christie, dove è stato polverizzato il record di vincite. La macchinetta Mangia Soldi ha premiato un fortunato giocatore con 9,42 milioni di euro. E chiudiamo con gli appuntamenti del giorno. Oggi riunione settimanale della Commissione Europea, il Presidente Giuseppe Barroso e il Collegio ricevono il Presidente dell'Europarlamento Jerzy Buzek, sempre a Bruxelles ma al Comitato delle Regioni, conferenza sul futuro dei trasporti e delle reti transeuropee. Infine ad Algeri, conferenza dei Ministri dell'Industria dell'Unione Africana, partecipa il Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa, una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.